Ciao a tutti, benvenuti. Questa serata è stata pensata per ricordare un anniversario di un fatto accaduto verso la fine della Seconda Guerra Mondiale in Sicilia, che però è in parte quasi completamente dimenticato o comunque non è stato studiato nei suoi vari aspetti. E riguarda in particolare, è dedicato a una persona che fu tra le più attive in questi fatti che successero a Ragusa nel 1945, che è Maria Occhi Pinti. Nel dicembre, gennaio 1945, il governo Badoglio emanò un bando per ricostituire l'esercito monarchico, no, legato ancora al re, chiamando i giovani di leva del siciliani, e non solo, e quelli che erano rientrati dopo l'8 settembre, che erano tornati a casa, che non volevano chiaramente ritornare a fare il soldato. E nacque un movimento che fu denominato dallo slogan che lo caratterizzava, che è "non si parte, non si parte". A questo si legò un altro slogan che è "indietro non si torna", perché volevano affermare che appunto fascismo e monarchia erano un'epoca ormai tramontata e quindi bisognava fare altro, ma non tornare a combattere in nome del re. Il Partito Comunista mandò Licausi, che era un suo esponente tra i più noti, con l'ordine che invece dovevano partire i giovani per dare una mano ai fratelli del nord che stavano combattendo contro i nazifascisti. La gente però, i siciliani appunto, ne avevano piena le scatole sia della guerra, quindi indipendentemente da chi li chiamava non volevano più partire e si ribellarono a questo tipo di richiesta. Quindi lo Stato, diciamo, l'esercito italiano e quelle truppe che ancora erano state ricostituite andarono paese per paese per cercare di convincere, comunque a cercare i giovani che si erano nascosti e che non volevano partire. Ci furono dei rastrellamenti, ci furono anche delle sommosse, non solo, noi parliamo in particolare di Ragusa, però coinvolse tutta la Sicilia, Licata, Agrigento, Messina, cioè ci fu proprio questa ribellione a non voler più partire, a non voler più sapere nulla della guerra. Maria Occhi Pinti era una giovane donna sposata di 23 anni, incinta al quinto mese di gravidanza, che guidò la rivolta delle donne, delle mamme, delle madri, delle fidanzate, delle mogli di questi ragazzi, di questi uomini, perché non partissero. E la sua azione più clamorosa fu di sdraiarsi davanti ai camion che stava portando via quelli che erano stati trovati durante questo rastrellamento. Io adesso leggo qualcosa dal suo libro. Lei ha scritto poi un libro che è Una donna di Ragusa, in cui racconta la sua vita, in particolare si sofferma su questo episodio. E dice: la mattina del 4 gennaio, verso le 10, mentre stavo lavorando, mi sentì chiamare dalle donnette del mio quartiere che gridavano: venite, venite sullo stradone. Comare, voi che sapete parlare, voi che vi fate sentire e avete coraggio, venite a vedere che gran camion che c'è e si sta portando i nostri figli. Il camion carico di giovani veniva avanti come un carro funebre. Fallito il rastrellamento notturno, perché i giovani scappavano in campagna e andavano a dormire in casa di vicini, le autorità avevano deciso di fare una retata, cominciando da cima dello stradone. Prendevano tutti i giovani che trovavano nelle botteghe, dei barbieri, dei calzolai, dei maestri carretta, in particolare del quartiere popolare che veniva chiamato la Russia. Davanti al camion venivano le autorità di polizia, tra gli altri mi dissero anche il vicequestore di Catania. All'incrocio dello stradone mi trovai dinanzi al camion, seguita da altre donne. Ci avvicinammo agli sbirri che erano armati. Lasciateli, lasciate i nostri figli, per carità. Qualcuno tentava di disarmarli o si inginocchiava per commuoverli. Ridatemi il mio unico figlio. Ma i poliziotti erano impassibili. Il camion riprendeva la sua marcia, lenta e inesorabile. Allora urlai: lasciateli, e mi stesi supina davanti alle ruote del camion, mi ucciderete, ma voi non passerete. I poliziotti mi rialzarono da terra e cercarono di convincermi a tornare a casa. Dicevano che i giovani li portavano al distretto e poi li rilasciavano subito. Ma io continuai a protestare, a oppormi col mio corpo disteso nel fango della strada. Lo stradone in pochi minuti fu pieno di gente, eccitata e pronta a tutto. Le autorità di polizia dettero ordine di lasciare andare i giovani e quelli, di corsa, sparirono tra la gente. Ma l'ira dei soldati fu tremenda. Spararono sulla folla inerme. Un giovane cadde ai miei piedi, mortalmente ferito. La folla si dileguò. Restarono i più coraggiosi e disarmarono i militari che c'erano. Io venni sballottata da un angolo all'altro della strada mentre tentavo di sbarrare il passo ai soldati. Il ferito si torceva per terra dal dolore, ma nessuno si muoveva per portarlo all'ospedale. Allora un giovane operaio puntò una pistola contro il maresciallo dei carabinieri gridando: «Portatelo all'ospedale, se no vi faccio fuori». Così uno dei nostri salì sul camion e potemmo adagiarvi il ferito, mentre i poliziotti si schieravano sul corso o si sparpagliavano lungo la via 4 Novembre con le spalle al muro e le armi spianate. Io gli gridai in faccia: «Ci vendicheremo». Questa è la prima parte del libro, poi dopo c'è la seconda, che parla proprio dei momenti più cruenti di questa rivolta. Maria Occhi Pinti è una figura simbolo del riscatto sociale e del processo di emancipazione delle donne in Italia. Io ho letto questo libro, Una donna di Ragusa, e le ho voluto dedicare insieme a Mauro Geraci, che è un cantastorie vero, questa ballata. Questa è la storia vera di una donna combattente che ha detto no alla guerra, protestando fermamente. Dalle pagine di un libro ti ho scoperto e mai colpito. Maria Occhi Pinti, dallo sguardo fiero e ardito, sulle strade di Ragusa hai spezzato le catene, tante lotte per il pane con le donne del quartiere. Con la guerra ancora in corso ti sei iscritta al sindacato, troppa era l'ingiustizia, ma a quei tempi era peccato. Poi nel 45 un sol grido non la guerra, eri di 5 mesi e ti sdraiavi sulla terra. Insieme alle altre mamme, la giovane Maria, alla testa della lotta vuol fermar la fanteria. Impediva la partenza di ragazzi richiamati che su camion con violenza, con la forza caricati, dei Savoia alla sbirraglia minacciava col fucile. Han sparato sulla gente, son 2 vittime a morire. Da Palermo a Siracusa, da Messina, da Agrigento, la Sicilia ora si infiamma, cresce un grande movimento. Sparatorie sulla folla e tumulti da spavento, la rivolta a uno stato sordo, cieco e violento. Non si parte, non si parte, tu per prima l'hai gridato, e il potere per vendetta contro te si è scatenato. Al confino ti ha mandato con la bimba appena nata, ti opponevi all'ingiustizia, poi a Palermo carcerata. Sempre pronta a denunciare, tu ribelle combattente, i soprusi della legge verso chi non conta niente, contro tutti i pregiudizi e distesa sulla terra. Hai fermato col tuo corpo l'ingiustizia e la guerra. Con te siamo stesi a terra, un sol pugno in cielo alzato, di lassù pronti a schiacciare quando parte un carro armato. Di lassù pronti a schiacciare le violenze dello Stato. Un'altra figura emblematica è Augusto Masetti, un anarchico antimilitarista che il 30 ottobre del 1911, quando era stato richiamato militare in partenza per la guerra di Libia, fu protagonista di un clamorosissimo atto di insubordinazione agli ordini militari e sparò contro il suo colonnello. E lo ferì solo a una spalla e prima di venire fermato dagli altri carabinieri che lo portavano in questura, gridò «Viva l'anarchia e abbasso l'esercito!» e poi, rivolgendosi ai compagni, disse «Fratelli, ribellatevi!» E io ho fatto questa ballata che è un po' la sintesi tra il gesto clamoroso di Masetti e quello che avviene in Russia oggi, da quello che si può intendere dalla stampa. E ho fatto questa ballata che si intitola «Ricordate il soldato Masetti». Agli inizi del Novecento l'Italia occupava la Libia, delle altre potenze l'invidia, un impero voleva conquistare. Ricordate il soldato Masetti che al suo colonnello ha sparato, col suo gesto ribelle ha iniziato una lotta per la libertà. Nell'attesa in caserma a Bologna, prima di venire arrestato, col suo atto di sfida allo Stato, grida: fratelli, dobbiamo disertare. Noi non siamo carne da macello, conquistare le terre non vogliamo, alla guerra mandiamo il sovrano, noi amiamo l'umanità. E la fiamma no guerra vampa, il Masetti è passato alla storia e di lui ne conserva memoria di chi ha cuore la libertà. A 100 anni dall'eroico gesto hanno in Russia il Masetti imitato e tra Putin, Ucraina e la NATO non si vogliono proprio schierar. Un soldato con il carro armato si è lanciato contro il suo comandante, ma l'autore non è pazzo delirante, il suo gesto ha un solo perché. Una recluta oggi in Russia ha sparato contro i suoi superiori, niente vinti e né vincitori, il fuoco subito deve cessare. E la patria lo vuole assassino, ma c'è ancora qualcosa da fare, tante strade da cui disertare per non perdere l'umanità. Date ascolto al soldato Masetti, disertare non è reato, opponiamoci contro lo Stato e che in guerra ci vuole mandare. Io la patria non la conosco, il Masetti così diceva, i proletari non hanno bandiera e la guerra la vuole il padrone. I proletari non hanno bandiera e la guerra la vuole il padrone. Grazie. Adesso farò questo brano che si intitola Soldato vestito d'ulivo, che è stato reso noto dalla grande cantante Millì negli anni 70. E io l'ho ascoltato nel 94 in un concerto del gruppo di canto popolare La Macina, intitolato Il canto della memoria. E questo canto si intitola Soldato vestito d'ulivo. Soldato vestito d'ulivo, castrato nel nome dei padri, impiccato al fianco a due ladri, soldato, sei ancora vivo, solleva lo sguardo da terra, c'è ancora qualcosa da fare. Una festa da santificare, coltiva anche tu la tua guerra. Prendi il fucile, scatena la fanfara, mira al colonnello in mezzo agli occhi e spara. Brucia in un rogo tutte le uniformi, se c'è dentro qualcuno aprile, le palme ancor piene d'amore, sotto uno straccio di bandiera t'ha dato una cifra e un fucile. Stai piegato da eroe, nel vento un odore di fogna, e hai pianto per la vergogna di perdere la tua umanità. Prendi il fucile, scatena la fanfara, mira al colonnello in mezzo agli occhi e spara. Brucia in un rogo tutte le uniformi, se c'è dentro qualcuno pagherà i suoi giorni. La la la la la la la la. Grazie. Adesso un canto un po' più leggero, ma comunque è sempre una satira contro la casta militare. L'abbiamo visto questa casta militare in azione proprio nel periodo del Covid, nell'aprile del 2022, quando il commissario straordinario per l'emergenza Covid, il general Figliuolo, si è presentato in televisione col cappello da alpino, tutte le medaglie esposte in bella mostra. E quindi niente, io gli ho dedicato questa canzoncina. Il general Figliuolo mette in mostra le medaglie, per ora non si sa se vince le battaglie, e i partiti tutti l'han voluto decorare, primo militare a gestir la sanità. Per finire io farei un canto contro la guerra che ho composto proprio in occasione dell'entrata in guerra tra la Russia e l'Ucraina a fine del 2022. E a questo proposito, dato che appunto noi raccogliamo tutte queste ballate sul nostro sito, che è l'associazione cantastorie.online, abbiamo dedicato una pagina a tutte le ballate che sono state fatte, che ci mandano, così è un contenitore contro la guerra. La ballata che faccio adesso si intitola Ripudiamo la guerra. Tutto è finito, la guerra è alle porte, la mente rifiuta lo spettacolo della morte, non si può credere. credere che sulla terra esiste ancora chi vuole far la guerra. Non si può credere che sulla terra esiste ancora chi vuole far la guerra. Quando a Berlino han fatto cadere il muro, han detto il mondo sarà certo più sicuro, ma in 20-30 anni da quel momento barriere e muri ne han fatti più di 100. Russia, Cina, la NATO e tutti i potenti han fatto a gara a produrre più armamenti, cannoni e bombe di precisione non servono certo a pace e distensione. In questi anni i governi nazionali han triplicato le spese militari, hanno creato le condizioni a nuovi conflitti e nuove aggressioni. Sempre le guerre son contro il genere umano. Le paghiamo, tutta la gente si ribelli, basta sparare contro i nostri fratelli. Ucraina o Putin, con chi dobbiamo stare? Imperialismo russo o quello occidentale? Un'altra via percorreremo, se vogliono guerra e noi diserteremo. La sola cosa che ci resta da fare, mettiamo sabbia nella macchina militare, tutte le armi gettiamo a terra, i lavoratori ripudiano la guerra. Tutte le armi gettiamo a terra, i proletari non vogliono far la guerra. Grazie. Adesso Mauro. Ritorniamo al libro di Maria Occhi Pinti, al suo racconto di quei giorni di rivolta a Ragusa. Il 4 appunto c'è stato questo rastrellamento e lei continua a scrivere. Il pomeriggio il sacrestano della chiesa di San Giovanni, tornando a casa, incontrò un ufficiale, uno che si dava molte arie e azzardò appena a chiedergli: «Ma insomma, cosa volete dai giovani che ormai sono tutti stanchi dalla guerra?» Fu un lampo. L'ufficiale estrasse di tasca una bomba a mano e gliela scagliò contro, staccandogli la testa dal busto. Fino a quel momento il popolo non aveva sparato un colpo, ma lo scempio del sacrestano inasprì maggiormente gli animi e nella giornata del 5 la gente si preparò alla lotta. Piovero armi da tutte le parti, residuati di guerra, roba abbandonata dai tedeschi. Si vedevano persino ragazzi di 13 anni con bombe a mano e nastri di mitragliatrice. Il quartiere popolare, detto la Russia, fu subito in mano ai ribelli. Il resto della città era vigilato dalla polizia. Il 6 gennaio, verso l'1 del pomeriggio, un gruppo di giovani partì per occupare il posto di blocco che era a Beddio, a 1 chilometro dall'abitato. Si udì un fracasso terribile di spari e una folla di curiosi si avviò in quella direzione per vedere come si battevano i nostri. Qualcuno si affrettava, tutto sudato, con le munizioni addosso, verso la linea di fuoco. Io dentro casa fremevo. L'urlo della mitragliatrice mi faceva male al cuore. Restarmene dentro non è tradimento? All'improvviso qualcuno bussò alla porta. Venga a soccorrere i feriti. Io non ci pensai due volte. Mio padre voleva impedirmelo, ma io ero decisa e scappai fuori. Arrivai a Beddio, a 20 metri dalla linea di fuoco vedevo tutto. I soldati sui camion e in mezzo allo stradone e i nostri accovacciati dietro i muretti che facevano da trincea. I nostri gridavano, militari, arrendetevi, non sparate, e quelli risposero col piombo. Fu così che i giovani iniziarono l'attacco. Verso le 3 la battaglia era nel pieno del furore. I soldati resistevano ancora quando, a dare una mano ai figli, vennero i padri, contadini anziani con vecchi fucili da caccia arrugginiti, e presero i soldati alle spalle. Caddero 2 ufficiali. L'esercito alzò bandiera bianca. Si arrendevano. Dal mio nascondiglio vidi lo straccetto bianco sventolare nell'aria sotto il sole di gennaio e quel simbolo di pace mi riempì il cuore. L'inferno era finito. Ma la notte tra il 6 e il 7 gennaio, per la nebbia, la pioggia, il freddo e la stanchezza, rimasero in pochi a fare la guardia. Non c'era possibilità di cambio, tutto era affidato all'improvvisazione e allo spirito di sacrificio di quei giovani. Nel pomeriggio del 7, dalle 2 principali vie d'accesso alla città giungevano i rinforzi per gli assediati e gli insorti vennero a trovarsi in una drammatica situazione. Dapprima resistettero come poterono, poi ricorsero alle barricate, ostruendo le strade per ostacolare l'avanzata dell'esercito. All'entrata dei soldati nessun ribelle si arrese, ci fu piuttosto come uno sbandamento per la campagna. Cominciarono poi a rastrellare casa per casa nel quartiere, appunto detto, la Russia. I militari liberati ebbero carta bianca e si vendicarono subito arrestando tutti i giovani che avevano collaborato con gli insorti, percuotendoli col calcio del moschetto. Il terrore durò più di una settimana. Praticamente l'ordine fu riportato al prezzo di numerosi caduti e di arresti, si parla di più di 300 persone, che furono poi deportate a Ustica, dove fu portata anche Maria Occhipinti, partorì a Ustica, poi fu trasferita al carcere di Palermo. E le imputazioni erano pesantissime perché erano alto tradimento, insurrezione armata contro i poteri dello Stato, denigrazione della guerra e detenzione di armi. Uscì con l'amnistia Togliatti, non a giugno quando fu emanata l'amnistia, ma in dicembre, perché trovarono un altro modo per tenerla in carcere. E da quel momento iniziò una vita avventurosa, sempre legata però alle lotte per l'emancipazione delle donne e per la libertà e l'uguaglianza. Fu costretta a lasciare Ragusa perché comunque non ebbe una riconoscenza da parte di coloro che lei aveva aiutato, diciamo, le madri con cui aveva solidarizzato, anzi alcune di loro gli rimproveravano che il figlio era morto per casa sua, quindi la situazione, poi aveva lasciato il marito, insomma aveva rotto anche quello che erano i costumi di allora siciliani. Il Partito Comunista disse peste corna di questa donna perché, e di coloro che avevano partecipato a questa rivolta. Lei lasciò la Sicilia, andò in Africa, in America, ritornò solo, diciamo, dopo molti anni, però si stabilì a Roma, dove morì nel 1996. Però ecco, se vi capita di leggere appunto Una donna di Ragusa, è veramente un libro che contiene diversi spunti anche proprio per capire quello che sta succedendo oggi. Però appunto loro non era una ribellione solo di diserzione, ma di opposizione contro lo Stato che voleva riportarli a combattere per quelli che non erano i loro interessi. Adesso passiamo, cambiamo sì. registro e passiamo a Mauro. Sì, sì, sì, sì. Con una serie di... perché la letteratura del movimento antimilitarista siciliano è vastissima, è vastissima. E secondo me è stata Maria Occhipinti dal Paradiso che si è fatta sentire, perché questo anniversario, 80 anni, cioè quello che lui ha raccontato accadeva esattamente 80 anni, cioè tra il 4, il 5, il 6 e il 7 di gennaio del 1945. Quando Roberto ha proposto, dice, ma perché non organizziamo qualcosa qui visto che viene Mauro? E dice, vabbè, ma allora facciamo una cosa, beh, lei ha fatto questa bellissima ballata su Maria Occhipinti, abbiamo pensato a Maria Occhipinti, dice, ma guarda, è esattamente l'ottantesimo compleanno dell'azione antimilitarista presa da questa straordinaria narratrice, perché lei poi è anche scrittrice, intellettuale, è una donna straordinaria. Allora io ho messo assieme alcune delle tantissime ballate che i cantastorie hanno prodotto contro l'uso delle armi, contro l'uso delle armi, contro anche le caste. Io certe volte userei anche la parola mafia. Militare, cioè diciamo che forse è uno dei periodi in cui l'investimento per le armi, la finanziaria dello scorso anno erano soltanto 29 miliardi di incremento cioè per le spese dell'esercito e delle armi, per la sicurezza, per i sistemi di intelligence, insomma è un momento in cui la lotta contro la corsa agli armamenti e per il disarmo che i siciliani hanno appunto iniziato fin dagli anni di Maria Occhipinti, che poi è andata avanti a Comiso, a Sigonella contro i missili, cioè dove Fortunato Sindoni, cantastorie di Barcellona, ha scritto diverse ballate. Io ne ho scelte alcune, parto da due mie ballate, una recente, l'altra un po' meno, una non ci vogliono i sottotitoli, l'altra invece ci vogliono i sottotitoli, quindi prego cioè se di prepararsi, perché la prima è in una specie di italiano ed è si intitola Il cinghiale porta pace. Ma che c'entra il cinghiale? Noi a Roma siamo invasi dai cinghiali, perché siccome Roma è sporchissima, questi cinghiali che hanno, diciamo, si sono riprodotti in tutte le campagne, vengono in città e li ritrovi in mezzo ai cassonetti. Ci sono state persone che sono state anche morse dai cinghiali, e quindi a Roma, ma anche a Messina, addirittura in una strada è comparso un nuovo segnale stradale che vede il cinghiale, cioè, tipo pericolo di attraversamento cinghiali. Certe volte se le sono ritrovate nelle case di campagna, insomma, cioè si riproducono e quindi il cinghiale è stato criminalizzato. Allora io dico, ma perché bisogna criminalizzare i cinghiali e non bisogna criminalizzare per esempio i pitbull? Non lo so, dico che sono meno criminalizzati, insomma, e anche gli altri animali. Allora ho detto, ma guarda, ma può essere che il cinghiale, che sia il cinghiale l'animale che porterà la pace su questo mondo, perché il cinghiale divora tutto, divora i torsoli di pera, le bucce di banana, le cartacce che restano nei cassonetti, e quindi una volta che questi cinghiali hanno divorato tutto quello che c'è da divorare e sono sempre così affamate, allora io ho pensato in questa ballata che magari questi cinghiali potessero iniziare a divorare le armi, i missili, le bombe, le granate, in modo tale da poi trasformarle attraverso un apparato digerente in scarti. Su questa liberazione dalla logica militaresca, dalla logica della guerra, l'anno scorso ho scritto questo: Il cinghiale porta pace. Un cinghiale i cassonetti rovistava a testa bassa, per finire quei pezzetti lì buttati dalla massa, di carciofi e di patate, di fettine assai ingiallite, clementine ed insalate, di pizze assai avariate, con le bucce dell'arancia e di torsoli di pera, si gonfiava la sua pancia come fosse mongolfiera. Al cinghiale ormai gigante gli finirono le scorte, e così fece il brigante per sconfiggere la morte, e così fece il brigante per sconfiggere la morte. Compagni di armi facciamo man basse, di missili e mine svuotiamo le casse, mangiate granate, cannoni e di caccia, le navi, ogni drone che in cielo s'affaccia, proiettili e bombe nucleari e cherrutti coi gas nervini ce n'è qui per tutti. E quando cacate ogni arma di merda diventa di pace e finisce la terra. Compagni di armi, facciamo man basse di missili e bombe, svuotiamo le casse, mangiate granate, cannoni e di caccia, le navi, ogni drone che in cielo s'affaccia. Proiettili e bombe nucleari e cherrutti, coi gas nervini ce n'è qui per tutti. E quando cacate ogni arma di merda diventa e di pace fiorisce la terra. Il cinghiale porta pace, fu d'esempio in tutto il mondo, per la fame sua vorace in quel pozzo senza fondo. Terminarono gli armamenti militari, anche la NATO se la succhiano gli armenti alla fine per gelato. Ma la fame della pace non finì a quei cinghialoni, si papparono Zelensky, Putin, Netanyahu e magari la Meloni. E così Piazza Pulita, ogni esercito un sol sorso, ritornò presto la vita sulla terra del rimorso. Ritornò presto la vita sulla terra del rimorso. Senza più frontiere, senza più confini, la terra viviamo coi nostri bambini, che liberi siamo da state e nazioni, da app, green pass, da speed e smartphone. Le reti spaccate, le banche sventrate, la nuova aria fresca ora la respirate, e grazie al cinghiale che porto la pace, il mondo mai più morirà sulla brace. Senza più frontiere, senza più confini, la terra viviamo coi nostri bambini, che liberi siamo da stati e nazioni, da app, green pass, da speed e smartphone. Le reti spaccate, le banche sventrate, la nuova aria fresca ora la respirate, e grazie al cinghiale che portò la pace, il mondo mai più morirà sulla brace. Le reti spaccate, le banche sventrate, la nuova aria fresca ora la respirate, e grazie al cinghiale che portò la pace, il mondo mai più morirà sulla brace. Queste... Adesso facciamo un salto di 1000 anni e andiamo al 1064. Nel 1064 pare che sia stato un certo Turpino, vescovo Turpino, che aveva la spada, però, perché i vescovi allora scendevano e usavano le armi, scrive, scrive un componimento che ha ispirato tutto il ciclo carolingio, su cui poi tutti hanno scritto i Barberino, i Reali di Francia nel 300, fino ad Ariosto, fino all'opera dei Pupi, in cui c'è un'esaltazione dello scettro, della croce, della spada, dei paradini di Francia, di Carlo Magno, della regalità, cioè, senza considerare che questo era un esercito che ha fatto delle crociate in nome della armata di Cristo. Ma è mai possibile un Cristo armato? Cioè, nell'opera dei Pupi palermitani, ma anche catanesi, Cristo c'ha sulla corazza la croce. Ma la croce può essere mai sulla corazza? Come i cristiani maroniti avevano la Madonna sui mitra. È una contraddizione in termini, non solo, ma il mito dice che nella Durlindana, che è la spada di Orlando, sia stato incastonato il capello della, un capello della Madonna, e che all'incrocio tra l'elsa e la spada è incastonato un pezzo della croce di Cristo. Ma è mai possibile il Cristo armato? Il poema della Chanson de Roland, che esalta queste gesta proprio di sterminio, di mori, di saraceni, cioè è un inno appunto alla guerra che segue una contraddizione, perché se c'era uno che non era armato era proprio Gesù Cristo. Porge l'altra guancia, i più piccoli entreranno nel regno dei cieli, San Matteo. Poi però alla fine della Chanson de Roland ci sono quattro versi che però nessun puparo, nessuno scrittore, diciamo così, poeta del Rinascimento ha centrato. C'è un momento in cui Orlando, sapete com'è la rotta di Roncisvalle, cioè i paladini per il tradimento di Gano di Vagonzi, i paladini sono stati tutti sterminati, ne rimangono solo due vivi, Oliviero e Orlando, e si ritrovano tutti e due in fin di vita sotto un pino. Allora Oliviero gli dice a Orlando: ma suona il corno, perché c'aveva un corno Orlando, un corno che gli aveva dato Carlo Magno, dice: in caso di pericolo tu suoni, perché io sono lontano e io con l'esercito ti vengo a soccorrere. Suona questo corno che stiamo morendo, e Orlando dice: no, io devo morire da solo, non voglio l'aiuto di nessuno, neanche di Carlo Magno, e suona sto corno, e quello finalmente lo suona, e lo suona talmente forte che gli scoppia il sangue dalle tempie. Questo racconta il mito. Ma la chanson de Roland, negli ultimi quattro versi, parla di un fatto importantissimo, che i pupari no, ma i cantastori se ne accorgono e lo riprendono. Ignazio Buttitti, il cantastore siciliano, nella sua rotta di Roncisvalle dice: chissà se il Signore a Orlando gli aprirà le porte del paradiso. Ma come? Il Signore al Cristo armato si depone il dubbio se deve andare in paradiso oppure no? Eh sì, perché il Cristo armato è stato un assassino di altri padri di famiglia che magari avevano un credo religioso diverso. La chanson de Roland finisce così con questi quattro versi. Sentite, lui sta morendo, Orlando sta crepando sotto il pino. O padre fedele, o vero fedele, che mai non hai mentito, tu richiamasti San Lazzaro alla vita e fra i leoni Daniele custodisti. Ora tu, l'anima salva, mi dai pericoli per i peccati che in vita mia commisi. Cioè Orlando, primo paladino di Francia, riconosce di avere commesso peccati in quanto sterminatore di genti, magari non per colpa sua, ma per colpa proprio della logica militaresca, della logica bellica, della logica feudale. Allora io su questi quattro versi ho scritto il pentimento di Orlando, che ora ve lo faccio sentire. È Orlando che sta morendo, io interpreto Orlando, l'eroe Orlando, il Cristo armato che sta crepando e che si comincia a porre questi dubbi sulla assurdità, sulla... come ti posso dire, cioè sulla criminalità insita nella cosiddetta guerra intelligente, della cosiddetta guerra santa. E lo faccio appunto riprendendo proprio le contraddizioni della chanson de Roland. Sapete, la spada di Orlando si chiamava Durlindana, c'è qualche termine siciliano stretto, ma magari io qua cerco di italianizzarlo e di farvelo capire. Sta morendo Orlando. Sapete, anche nel teatro dei pupi, il momento, come anche nel cunto, il momento culminante è quello della battaglia. I più grandi pupari sono quelli che riescono a far vedere nel teatrino montagne di cadaveri, cadaveri di mori, di saraceni con le teste tagliate, c'è il sangue, gli sprizzano gli occhi, c'è uno spettacolo terribile, è fatto con i burattini, ma se ci pensate eppure è patrimonio dell'UNESCO, cioè i cantastori nella maniera più assoluta, quelli sono patrimonio dell'UNESCO, e qua ci sarebbe da dire tanto e tantissimo. Quindi la logica dello scettro, della croce, della spada, della guerra, è patrimonio, è bene dell'umanità, capito? Non servi a niente. Orlando sta morendo. Non servi a niente. Lame Durlindana. La Durlindana è la spada di Orlando. Non serve a niente lame Durlindana. Stai morendo. Voglio l'inferno. E non mi aiuta Dio. Sputo lo sangue. E a vita torna in chiana io stesso sogno l'un nemico mio. Orlando, Orlando sogno, eroi di Roncisvalli, che invece mi s'ammazza, sono un corno. Si scanta da sombra in tasta valle, e Carlo magna un poco al ritorno. Cuviru di sica di stoli fanti, nescilu sono di la me valia. A verità vi dico sull'istanti, Sigano è Cristo Giuda e com'a mia. Io sto suonando l'olifante, ma non lo suono per i cristiani, non lo suono per i palatini, pistati di rusceccio allo murtaro, chianciù per i turchi, per le mori, per i saracini scannati mia, sopra denartaro. Ma quanto ne ammazzai? Ma quanti ne ho ammazzati, amori, turchi e saracini? A mille, da quando ero ragazzino, de quando era Caruso. Sti testi li tagliai una più una, brami hanno d'angelica o virtuso, e ora manco Cristo mi perdona. Culi tu brazza di la grandi cruci, tu spati pici longhi e mi scordai, la pace di la muri e di la luci, ma Cristo manna tutti come un rai. E ora che sto morendo mi sento come se fossi Ulisse, Ulisse, nudo, nessuno, nudo con niente, senza acqua e né sale. Picchi, picchi per Dio. Io assassino, sbirro dalla corona, io sogno fuori dello mondo, pi Allah, lo primo re di criminali. Perciò a chi mi chiama eroe, a chi mi dice eroe Orlando, io ci dico bastardo, non sogno l'eroe. Le vere eroi non hanno patria, le vere eroi non hanno spada, le vere eroi non hanno ermo. Re Carlo, Re Carlo a mia marmao, Lugatto Pardo del Roma capomafia, io di Palermo non sogno eroi. Gridati ali persone, farvi Orlando a mezzo all'auge lupi. Sentite questa frase: li veri eroi non hanno pagione, ma vi a finire sopra di le pupi. Ma quando n'ammazzai vi ricordati, dalla mia vita pace di famiglia, con Rinardo e cavaggia morti senza nulla briglia. Ma quanti ne abbiamo ammazzati, ma quanti ne abbiamo ammazzati di turchi, mori, saracini, montagne, montagne, ne faceva magghisari di testi, pedi, iammi, petti e vrazza. Carne alla brace, perché ne mangiavamo magari i cadaveri, a ora di mangiare le morti stisi, poi per materrazza. E dormevamo sopra i morti. E poi che la mattinata si arripigliava con le tue viso, lo conto vi lo fanno li para, se vi scordaste un numero preciso, Orlando ne scannò decimi chiara. Ed ora manco trovo lo coraggio, pianto lo spatone intra le corna, con l'eroica persi lo linguaggio, come un nutrico chianci cu non torna. Io che sono stato sempre sbirro di Carlo Magno, non sogno un eroe, schiavo dell'arma, schiavo da corona, ora me ne addugno, e d'ora in poi me faccio a croci, ma cu la mensaluna. Curazza, nera mia, corazza, nera mia, fatte pesanti, scassami cori, cascia, spade, sterno, chianate tutti, morti coturbanti, spingitemi in do funno dell'averno, picchi, come non credi a rudi uno, o di ricchezza e sazio amici cari. Io che ammazzai le turchi ad uno, io che ho ammazzato i turchi ad uno, a mia da solo, non saccio ammazzare. Or l'anno Cristo armato mi chiamaro, pilastro della pace e dell'impero. Ora castaio crepanno, vedo chiaro, na sola patria c'è il mondo intero. Na sulla patria c'è il mondo intero, perciò vi dite, ogni tanto, dintra stu teatrino, facetelo vincere lo sultano, che vincono sempre i cristiani, facete vincere su, ma non picciadimento come cano, l'avete a fare vincere con la stessa gloria, con lo stesso amore, con lo stesso onore del paladino. Custo sospiro. Abbraccio a tutti forti, abbraccio a tutti, abbraccio a tutti, cristiani, ebrei, musulmani, buddisti, testimoni di Geova, bektasciti, animisti, tutti abbraccio a tutti di tutte le religioni del mondo, abbraccio a tutti, pure un Maometto abbraccio, pure un Maometto. Re di lì, cristiani, la guerra è assai più nera di la morte, lo disse Cristo re di lì pagani. Di cristiani, la guerra assai più mira di la morte, tu dissi Cristo re di lì pagani. Pentimento di Orlando. E qua andiamo invece dal 1064 al 1943, ritorniamo a una piccola storia sullo sbarco in Sicilia di Turiddu Bella, grande poeta cantastorie di Mascali, anche se poi viveva a Catania. Oggi c'è la figlia Maria Bella che c'ha un centro studi a Siracusa, organizzano un premio di canzone narrativa. E questo si intitola Lo sbarco in Sicilia, in cui racconta tutte le contraddizioni, appunto anche lì dello sbarco in Sicilia, degli alleati, del progetto fantomatico di far diventare la Sicilia una delle stelle della bandiera americana. E anche questo è un inno contro le armi e contro la guerra, contro la assurdità e contro la disumanità del progetto militarista. Sono sbarcati gli liberatori con navi, aeroplani e carri armati, per fare il dono e lo favori, d'essere della guerra liberati, su americani sti benefattori, su un grisi insieme da voci alleati. e portano qui gli altri strumenti. Picci sarì la guerra tempunenti. Signore me, la guerra è lo sterminio delle gente, è una valanga che distrugge e passa, trascina le colpevole innocenti, è maceria diventa un soccolassa. La guerra è fatta d'odio e li sono cemente, sono l'intrighi, che la fanno l'intrighi, che l'intrighi. Sentite qua la parola, gli intrighi della guerra, che la fanno grassa. La guerra è mace di dolori e peni, maledetta mi sia. Quando è che veni, ora sbarcare o casta americani e sapido culi tratteni, tutta la me Sicilia occuperanno e con la pace portano lo beni e presto finirallo con ciabanno. N'amo mangiato tossichi e veleni, fame e namo soffruto con malanno. Per colpa di sti genti svergognati, senza nuda coscienza e lagenati. Parlo di tanti e tanti scellerati che con la guerra si fecero i sordi. La guerra è la più grande rapina, poi lo dico dopo con una ballata di Trincare, bellissima. Che fecero ricchezza con la guerra. Lo sangue ci su caro ai soldati, con furti, sciacallaggi e scurrettizi, con commercio a frumento, con patate, con fa cannuna o fabbrica cannizzi, e ci su lage di tante maniere, magari in talo governo e in talo ministeri. Ave tre anni. E pari ca fu a ieri, ca mi chiamaro a fare lo soldato. E io lassai una figlia e una mogliere, senza un goccio di grano macinato. L'incialazzi stilaci di misteri, lo sangue di libini hanno succato. Ma ora che sbarcaro i nemici, fini lo mangia con l'ufficio. Ora, se è vero chi che si dice, le fasciste di stamericare saranno tutti sbarazzati e la democrazia ne fa felici, picchi ne portano alla libertà, saranno fatti tanti nuovi lici per dare più diritto agli sfruttati. Se ne dicono tante cose storti per sti infelici, tante cose buone per sti infelici popolazioni. Ora l'America pure pare che si disponi a fare da Sicilia un nuovo Stato, con la ferma e precisa intenzione d'essere a riso Stato incorporato. Aumentano a così le nazioni che gli Stati Uniti hanno formato, e tutti quanti siciliani presto diventeranno americani. Ma quando mai quali americani, signori miei, sti decreti per mia sono panzani. La realtà è più onnivora e più cruda. Na poco di fascistazze italiane, la pace a riducero afflitta e nuda, lo sbarco dalle terre siculane fu concordato prima, porco Giuda, tra mafia, generali e l'un nemico per mettere lo fascio all'amico. Per chi ora l'invasore se fa amico, gli espargi sigarette e cioccolatte di caldà, porta rispetto allo grande e all'unico, e d'invasore non lo aspetto, c'ha anzi. Ma noi soldati ora penso e dico, che colpa avemo se sbarcaro qua? L'ordine è chi di non fare fuoco, e l'America avanza, e l'America avanza a poco, di lui destino, signori miei. Quale mai lo yoku, stu sbarco porta bene o porta mali? Scritta nel 43, già li tedeschi fanno lo trasloco, scappano per d'Italia centrali. Si finisci la guerra, andas tu loco. Viva tutti i nostri generali. E viva con le valise brusi. Morti allo fascio. E a tutti gli mafiosi. Da Turiddu Bella passiamo a Busacca, questa piccola ballatina di grande Ciccio Busacca, che ha lavorato pure con Dario Fo quando lascia la Sicilia. Ed è una canzone questa che in Sicilia girato, la cantava pure Rosa Balestrieri, anche se aggiungeva delle altre strofe, ed è anche questa un inno contro le armi, contro le ingiustizie e contro la guerra. Me ne vai un talaluna, dice qua la terra, due guerre mondiali ancora continuano, forse c'è, me ne devo scappare nella, ce n'è anche una di Trincale, uno che se ne vuole scappare dalla terra, se ne vuole andare nella luna, però va nella luna e ci trova la suocera che aveva fatto prima, dice allora forse è meglio che me ne... Vi saluto cari amici, parto in cerca di fortuna, aiu pronti li valigi, me ne vai in America, in Argentina, in Cile, in Germania, a Milano, perché è bella Milano, no, a noi è Torino. A noi ci piace Milano, ci piace Torino, ci piace viaggiare, a noi meridionali ci piace viaggiare, lo diceva Profazio in quella ballata quasi campadaria. Ci piace il turismo. No, me ne vai un talaluna, un talaluna, un talaluna, un talaluna si travaglia, non c'è nulla che paraglia, paraglia, il dialetto siciliano paraglia sono i dolori di pancia, nessuno che ha dolori di pancia. Li dinari fazzurra, dacci porto tutti i canti di la bella terra mia, caso tutti poesia, ieri faccio pazzia, dacci porto tutti i canti di la bella terra mia, caso tutti poesia, ieri faccio pazzia, taraluna, taraluna, non c'è nulla che comanna, non ci sono stilagiona. Non esiste la cunnanna, non ci sono le regnanti, non ci sono i ministri, non c'è carta nei registri, tutti uguali siamo già tutti paciuna, per chi libera la terra, non c'è nulla che fa guerra, c'è la vera libertà, siamo già tutti paciuna, per chi libera la terra, non c'è nulla che fa guerra. Ti saluto cari amici, parto in cerca di fortuna, aiu pronti li valigi, mi ne vai un dalla luna, dalla luna, dalla luna. Non c'è nudo che comanna, non c'è nudo che paraglia, arrivare faccio già, dacci porto tutti i canti di la bella terra mia, caso tutti poesia, io le faccio pazzia, dacci porto tutti i canti di la bella terra mia, caso tutti poesia, io le faccio pazzia, dalla luna, non c'è nulla che comanna, non c'è nulla che luna, non è vista la cunanna, non ci sono le regnanti, non ci sono i ministri, non c'è carta nei registri, tutto uguale siamo là, siamo là tutti in pagina, e chi libera la terra, non c'è nulla che fa guerra, c'è la vera libertà, siamo là tutti in pagina, tutti, e chi libera la terra, non c'è nulla che fa guerra, né Zelensky, Netanyahu, nudo Putin, Biden, Trump, c'è la vera. C'è la vera libertà, se morda tutti i fagiuna, e chi libera la terra, non c'è nulla da fa guerra. Il generale la puoi fare. Lei c'ha un diploma di cantastorie. Perché sì, ha fatto. Io e Claudio possiamo cantare un diploma di cantastorie. Al mio paese chiamato Varia, allatta tanti generali, come son belli sti generali, con il cordon tutti corda. Al mio paese una grande varia, che allatta tanti generali, come son belli sti generali, con il cordon tutti corda. E poi ci sono i colonnelli, come son belli, come son belli sti colonnelli, con i cordon tutti corda. 1, 2, 3, 4. Poi ci abbiamo i capitani, come son belli sti capitani, come son belli sti capitani, con i cordon tutti corda. 1, 2, 3, 4. Al mio paese chiamato Varia, di ufficiali quanti ce ne. Si riesce a capire quanto si spende di stipendi per il generale, per le alte cariche del MIDE, eppure sono soldi dello Stato nostri, non si riesce a capire. E neanche si riesce a capire l'industria delle armi. L'unica cosa che si riesce a capire è che nel Sole 24 Ore di qualche giorno fa si dice che in un anno la Airbus, la Leonardo, la Fincantieri, dove c'è il generale Graziano che si è suicidato dopo un anno e mezzo che aveva perso la moglie, qua ci sarebbe da scrivere 200 ballate, c'è, sono aumentate del 55% in un solo anno di spese militari. Le industrie denunciano, fonte Sole 24 Ore. Quindi. Ma comunque quanti sono? Allora abbiamo fatto un conteggio. Generali 2.883, colonnelli 10.923, capitani 4.807, poi tenenti, tenentini, tenentoni, tenentelli, e dimenticavo i maggiori, insomma avevo qualche 50.000 e passa solo di ufficiali. Il mio paese è una grande balia con dei milioni di disoccupati, ma il mio paese non si sta male perché allatta tanti belli ufficiali. Ma il mio paese che allatta tanti bei generali, come son belli, come son belli, con il cordon tutti torna, con il cordon tutti torna, con il cordon tutti torna. La voce non mi tiene più perché c'è l'umidità, ma ancora mi tiene per cantare altri due pezzi, uno mio e l'altro, anzi tre, di Trincale, uno il mio cortissimo, un minuto, l'altro due minuti, e poi vorrei concludere con Maria Occhipinti, che la facciamo la tutti, canta. Anche tu la facciamo assieme. No, io l'ho già cantata. Tu l'hai scritto. Perché c'è questa retorica del militare che è un figlio di mamma, del militare che è buono, che si tiene il bambino, del militare che è costretto. Voglio dire, il militare fa una scelta, si mette una divisa, c'ha le armi, c'ha le pistole, c'ha le pistole. Se uno vuole fare il figlio di mamma, un po' come Orlando, deve dismettere la corazza, deve dismettere la divisa. Quindi se hanno la divisa, non, io non li vedo più tanto come figli di mamma. E questo è il concetto che in qualche modo volevo dire con questa brevissima ballata che aggancio a C'è un uomo nel mondo, sempre di Franco Trincale, che consideriamo il nostro grande maestro e che poi andremo a trovare fra qualche giorno nella RSA, dove ahimè è ricoverato. E tre soldatin che vai a fare la guerra, non sei più quel bambin poverin figlio della tua mamma, sul capin piccolin la visiera lucida. Rataplan che comanda l'arma, il tuo bel cuoricin sbarazzin sotto mille medaglie, decorato al valor della morte spara sempre più forte, macchinin e trenin da quei dì ora son carri armati. Giochini carin, medagliette e granate, macchinin e trenin da quei dì ora son carri armati. Non son più quei giochini carin, mitragliette e granate. E se detto da noi tu vorrai ritornar a esser figlio mamma, dentro al cesso dovrai tu gettar la divisa e ogni arma. E se detto da noi tu vorrai ritornar a esser figlio di mamma, dentro al cesso gettar tu dovrai la divisa e ogni arma. C'è un uomo nel mondo che è morto ieri sera, è morto di fame, è morto in miniera, lo uccide il lavoro, lo uccide il digiuno, son già troppi morti, senza la guerra son già troppi morti su tutta la terra, non son le medaglie, non son le mitraglie, non son le canaglie che fanno gli eroi, la guerra è un delitto, la guerra è cretina, è un atto incosciente, una grande rapina. Non son le medaglie, non son le mitraglie, non son le canaglie che fanno gli eroi, la guerra è un delitto, la guerra è cretina, è un atto incosciente, una grande rapina. C'è un uomo nel mondo che muore domani, deve essere salvato, deve essere vivo, non deve morire di fame o di guerra. C'è un uomo nel mondo che è già condannato, deve essere salvato dovunque si trovi, è un essere sacro, è un essere umano, niente più guerra su tutta la terra, è un essere sacro, è un essere umano, che danno la pace. Un uomo che muore puoi essere tu, rispondi a pernacchie, rispondi a risate, non farò la guerra che tu quel che muore. Non son le medaglie, non son le mitraglie, non son le canaglie che fanno gli eroi, la guerra è un delitto, la guerra è cretina, è un atto incosciente, una grande rapina. Non son le medaglie, non son le mitraglie, non son le canaglie che fanno gli eroi, la guerra è un delitto, la guerra è cretina, è un atto incosciente, è una grande diceva pure Turiddu Bella nel 1943, la guerra è una grande, e lo vediamo con l'inflazione, tutto il macchinario che ruota attorno alla guerra, è una grande rapina. Chiedo aiuto, c'è un ritornello, si può ripetere, cioè, si recita due volte, quindi Maria Occhi Pinti la rifacciamo. Questa è la storia vera di una donna combattente che ha detto no alla guerra protestando fermamente. Dalle pagine di un libro ti ho scoperto e mi hai colpito, Maria Occhi Pinti, dallo sguardo fiero ardito. Sulle strade di Ragusa hai spezzato le catene, tante lotte per il pane con le donne del quartiere. Tante lotte per il pane con le donne del quartiere. Con la guerra ancora in corso ti sei iscritta al sindacato, troppa era l'ingiustizia ma a quei tempi era peccato. Poi nel 45 un sol grido no alla guerra, eri di 5 mesi e ti sdraiavi sulla terra insieme ad altre mamme, la giovane Maria. Alla testa della lotta vuol fermar la fanteria, alla testa della lotta vuol fermar la fanteria. Impedivan la partenza di ragazzi richiamati che su camion con violenza con la forza caricati. Tesa voi alla sbirraglia minacciava col fucile, ha sparato sulla gente, son due vittime a morire. Da Palermo a Siracusa, da Messina, da Agrigento, la Sicilia ora si infiamma, cresce un grande movimento. La Sicilia ora si infiamma, cresce un grande movimento. Sparatorie sulla folla e tumulti da spavento, la rivolta d'uno Stato sordo, cieco, sordo, cieco e violento. Non si parte, non si parte, tu per prima l'hai gridato, il potere per vendetta contro te si è scatenato. Al confino ti ha mandato con la bimba appena nata, ti opponevi all'ingiustizia, poi a Palermo carcerata. Ti opponevi all'ingiustizia, poi a Palermo carcerata. Sempre pronta a denunciare, tu ribelle combattente, i soprusi della legge verso chi non conta niente. Contro tutti i pregiudizi e distesa sulla terra, hai fermato col tuo corpo l'ingiustizia e la guerra. Con te siamo stesi a terra, un solo pugno in cielo alzato, di lassù pronto a schiacciare quando parte un carro armato. Di lassù pronto a schiacciare le violenze nello Stato. Grazie Conchietta, grazie Totti Pinciotto per averci dato la possibilità di ricordare Maria Occhi Pinti, che è la scintilla di un nuovo movimento non siciliano ma universale, universale per il disarmo e per la lotta agli armamenti e per quindi la fine della guerra, perché se non si levano le armi la guerra si continua a fare. Marx parlava dei mezzi di produzione, ma perché i mezzi di distruzione? Diceva Ignazio Buttitta, a bomba atomica ante mani dell'uomo, un tocore dell'uomo e non scoppia, ma condiziona tutti i poteri. Cioè, ci sarebbe da cantare per ore. Grazie a tutti, grazie Tiziano.